24, la storia. Achille Lauro è stato un personaggio estremamente controverso. Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo. Chi non gli voleva bene, aveva in giro le storie che prima delle elezioni gli dava una scarpa e poi gli dava l'altra dopo. Aveva inventato un partito monarchico popolare. Dal punto di vista politico, uomo di grande spregiudicatezza. Guidava del tu a tutti, a De Gasperi, al Papa, a chiunque. E la storia che oggi raccontiamo su Radio 24 è quella del comandante Achille Lauro, un imprenditore spregiudicato, il più ricco armatore che l'Italia abbia avuto, proprietario di giornali, presidente del Napoli, sindaco plebiscitario della sua città, un politico amato e discusso. L'ultimo viceré di una città amata e tradita, e questa è la storia che comincia con le ore drammatiche del traslatlantico che porta il suo nome, il nome del proprietario della compagnia, Achille Lauro. Buonasera, la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo è stata sequestrata stasera davanti a Port Said in acque internazionali da un comando palestinese che chiede la liberazione dei connazionali detenuti in Israele e minaccia di uccidere tutti gli ostaggi. Tutte le notizie relative a movimenti militari sono false e destinate soltanto a creare confusione. Il ministro degli esteri Andreotti, appena ricevuta conferma della notizia, si è messo subito in contatto con il collega egiziano Meguid. Achille Lauro fu, come si ricorda, un momento drammatico, perché questo nucleo di palestinesi che aveva sequestrato la nave, portando in alto mare un numero di passeggeri enorme, tra cui grandissima parte erano stranieri. Il capitano ha detto che tutti a bordo stanno bene e che i dirottatori hanno rinchiuso i passeggeri nelle loro cabine. Invece poi questo Leon Kiefer era stato ucciso. Avevamo pregato Arafat se ci poteva dare una mano. Era stato un suggerimento che gli americani avevano fatto al nostro ambasciatore a Washington. Arafat aveva mandato questo suo Abu Abbas, questo che in quel momento era un mediatore a cui dovevamo essere anzi grati. Poi si vede invece che era un fierissimo mascalzone e che era stato probabilmente quello che aveva organizzato sotto banco. Credo veramente all'insaputa di Arafat. We are condemning all kind of terrorism against civilians, and especially this boat is an Italian boat which is very near, close to our people and to our cause. Il sequestro dell'Achille Lauro scandisce la tappa finale di un percorso durato per oltre mezzo secolo, che vede come protagonista il più importante armatore italiano, Achille Lauro, ma anche il fondatore della flotta navale più grande del Mediterraneo. Una storia esaltante, affascinante, ma anche dalle tinte foschissime che ha visto comandante, così chiamavano e si faceva chiamare Lauro, padrone della scena imprenditoriale e politica sia napoletana che nazionale, per molti anni. Ma chi era Achille Lauro? E come nasce a Napoli il fenomeno Achille Lauro? Questa è la descrizione di Cirino Pomicino. Achille Lauro aveva con gli affari un rapporto sanguigno e una capacità di realizzare cose che ad altri non venivano neanche in mente. Achille Lauro nasce a Piana di Sorrento il 15 giugno del 1887 da Giocchino Lauro e Laura Cafiero, quinto di sei figli. Il padre, armatore, possiede dei velieri e Achille, giovanissimo, si imbarca come marinaio per girare il mondo. Un'esperienza che gli sarà molto utile negli anni a venire. Così raccontano il giornalista Nuccio Fava e lo storico Antonio Ghirelli. Lui a Napoli era tutto, insomma, lo consideravano una sorta di santo protettore. Credo che dopo San Gennaro in quegli anni ci fosse lui. È stato forse il più grande imprenditore del Mezzogiorno, almeno nel Novecento. È stato un uomo politico molto spregiudicato. È un presidente del Napoli piuttosto bravo. Il comandante Lauro parla di sé in terza persona come un regnante o un capo di Stato.

uso una parola non in termine spregiativo, il popolino, la plebe, è stato capace questa massa di portarla, insisto, utilizzarla, e qui sta il negativo, ma in termini positivi di portarla dentro un sistema che poi si è sviluppato in termini politici, il sistema dei partiti e così via. Ogni volta che ci sono le elezioni, sia rosso, sia verde, sia bianca, sia in tutti i colori, facciamo questo e facciamo quell'altro. Invece ci abbandonano tutti e siamo sempre una zona abbandonata. Non possiamo andare bene con questa gente che sta. È venuto lei perché si chiude, tutto il popolo ha bisogno da mangiare e non può mangiare. Beh, Napoli è una città che ha molto sentimento. I napoletani sono delle persone che hanno delle simpatie e naturalmente seguono queste direttive di simpatia, di sentimentali. E naturalmente questo porta che sono degli uomini che a Napoli possono attrarre e possono avere quindi una somma di voti preferenziali più che in qualunque altra città. Lauro aveva fatto tante cose per Napoli, ha fatto un villaggio capace di 1000 appartamenti, quindi delle simpatie delle procurate anche attraverso opere che indubbiamente i napoletani hanno apprezzato. Il comandante Achille Lauro fa discutere, soprattutto su temi come l'edilizia e il contrabbando, così Corrado Ferlaino e Antonio Guizzi. Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo, ma sai, chi, tutte, nel mio campo le imprese di costruzione lavoravano moltissimo, è chiaro, si può parlare di speculazione, forse sì, però c'era gente che lavorava. Poi Lauro aveva un vantaggio, lui teneva sempre la porta aperta. Chiunque praticamente si presentava, lui lo riceveva. Lo riceveva anche, non so, lo spazzino, il barista. Lui parlava con tutti, non c'erano grandi problemi. Lauro consentiva il contrabbando delle sigarette, perché come è noto che il contrabbando delle sigarette dava a vivere a una quantità di persone. Si è parlato perfino di un indotto che poteva implicare almeno 100.000 persone, non so se questo numero sia esatto, ma c'è una quantità di persone. E quando è scomparso poi il contrabbando delle sigarette, è comparso poi la droga, è scomparso tante altre attività malavitose. Io cerco di favorire tutti quelli che è possibile, di dare degli impieghi. Se lei vede, la flotta Laura c'ha un'abbondanza di personale che un altro le avrebbe mandati via. Io li ho tenuti, ho preso anche qualche altro. Non era un clientelismo necessario in una città piena di problemi, ma era qualcosa di più scientifico e anche diciamo non bella, perché si agiva sulla fame delle persone. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di Achille Lauro, imprenditore e sindaco di Napoli, uno degli uomini più controversi del Novecento del Mezzogiorno italiano. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24, oggi parliamo dell'uomo che ha caratterizzato per tutto il Novecento la vita di Napoli e non solo, Achille Lauro. È uno dei momenti storici più delicati, ma per certi versi anche più esaltanti del capoluogo partenopeo. Lauro continua a fare il sindaco, è forte di un record di 680.000 preferenze con il partito monarchico, porta in Parlamento 40 deputati. Sono anni dai forti chiaroscuri, con la città che cambia aspetto nel bene e nel male. Lauro trasformerà Napoli e ne determinerà il suo assetto urbanistico futuro. E da questo periodo, che 10 anni più tardi, nel 1963, trarrà ispirazione il regista Francesco Rosi per il celebre film Le mani sulla città, di cui questo che ascoltate è un brano significativo. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là. E questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani, questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. Il famoso film, il bellissimo film Le mani sulla città di Francesco Rosi è un atto di accusa largamente fondato su questa cricca, direi, che si era instaurata con un grande favore popolare, attenzione. Allora, invece di concepire le case popolari al posto dei famosi bassi, al posto di questi quartieri infernali in cui la plebe napoletana è rimasta quella del Seicento, ma non per colpa sua, per colpa della borghesia napoletana e per colpa di questa edilizia folle, insensata, e di un addensamento pervano di tipo asiatico, direi, per intenderci, con condizioni di servizio, condizioni economiche di tipo africano, insomma, questa è la verità, purtroppo continua ad essere in parte così. Ci fu questo massacro urbano contro il quale invano le forze di sinistra, e allora i sindacalisti, eccetera, tentarono di opporsi. Furono create dei nuovi bellissimi quartieri residenziali in collina, tra Posillipo, via Petrarca, eccetera, strade e case stupende, ma per ricchi, per miliardari, insomma, non per la gente del popolo. Quindi creandosi situazioni insopportabili di vita per la grande quantità del popolo napoletano, per la maggioranza del popolo napoletano. Ci sono dei campi dove giocare? No, no. Giochiamo in mezzo alla strada. In quanti siete? 10 figli, 12 persone. In quante stanze? 2 stanze. Purtroppo ho capitato una casa che è molto umida, c'ho 3 bambini che stanno sempre poco bene. Negli anni della sua amministrazione, Lauro ha autorizzato costruzioni senza nessuna regola di 1.800.000 metri cubi di edificato, senza servizi. Dopo di lui c'è stata l'amministrazione straordinaria del commissario Correra e i governi a direzione democristiana. Così la ricostruzione dei giornalisti Ermanno Corsi e Marco De Marco. Lui ha avviato la speculazione edilizia, ma dopo altri governi e altri sistemi hanno addirittura industrializzato lo sfruttamento dei suoli, perché di lui si dice che concedeva singole licenze edilizie. Andava uno che gli prospettava un problema, lui non sapeva che cosa fare, però diceva: boh, qua sta una licenza edilizia, vedi tu che cosa ne puoi fare. Ottieri era assessore nelle giunte Lauro. Fin quando fu assessore di Lauro non costruì praticamente nulla. Quando Lauro cadde, arrivarono i commissari voluti dal governo democristiano, allora Ottieri si scatenò. Cioè, il film di Rose che fa è del 1963. Racconta episodi che tutti coloro i quali videro il film attribuirono legittimamente, perché così la pellicola autorizzava a fare, a Lauro, che era di 10 anni prima. Il risultato fu che tutti d'accordo nel dare a Lauro la colpa della grande speculazione su Napoli, in realtà la grande speculazione avveniva in quegli anni là, nel 63. La Democrazia Cristiana, particolare molto curioso, applaudì a quel film. Per lei era un capolavoro, ma si capisce perché. Perché c'era un inferno da scontare, lo scontava Lauro, in realtà lo doveva scontare la Democrazia Cristiana. Questa è Stelle Napoli. Stelle Napoli. Ed il suo grande papà. Grazie, dottore. Maestro, buona volontà. Grazie. Abbiamo voluto finire con le stelle di Napoli perché sono le stelle che noi italiani vorremmo sempre che brillassero su Napoli. Viva Lauro! Toto. Perfino Totò ammette il suo appoggio a Lauro, il quale sosteneva il proprio candidato Leoni. O comandante è al massimo del suo splendore. Dopo la morte della moglie Angelina, sposerà la Miss Eliana Merolla. Queste le parole di Lauro. E ora sono passato a seconda nozze. Ho preso una ragazza, una giovane donna, molto giovane, molto bella, almeno a parer mio era molto bella, la quale, quando ha conosciuto me, era fidanzata. E l'ho incontrata la sera sotto il portone qua, perché veniva a chiedere aiuto, perché c'era stato un concorso di bellezza che poi faceva in Roma, questo concorso di bellezza che doveva preparare delle donne che potevano diventare delle attrici, e siccome lei pensava di voler fare un'attrice, come infatti aveva fatto un film che fu pagato da me, naturalmente. E

però tutte le società, tutte le perdite e tutti i guadagni di questa società confluivano in un conto personale Achille Lauro. Questo aveva creato una difficoltà di fare i conti, di fare i bilanci, di fare che ci ha presi tutti. Perché lui segnava le spese, le entrate e le uscite su un quadernetto nero appuntato a mano. Ora una flotta del genere, la più grande del Mediterraneo, non può funzionare così. Con le prime difficoltà economiche si è scontrato con la voglia delle banche di non aiutarlo. Non si è mai capito se è stato un fatto politico o se invece le banche veramente in quel momento hanno pensato di non poter più contare su Achille Lauro, grosso armatore, e quindi di non rientrare dei loro soldi. La politica, in questa mancanza di volontà di salvare la flotta Lauro, ha pesato moltissimo, perché poi la flotta, e non si capisce perché, perché poi la flotta Lauro era un bene per il paese, perché oltre i 2.000 dipendenti c'era un indotto enorme, perché lavorava tanta gente intorno a questa flotta. Qui c'è forse sempre anche un po' un certo tipo di nord e sud, il mondo economico italiano, insomma, in fondo non riconosceva Lauro, riconosceva, forse uno lo considerava pittoresco. Il 15 novembre del 1982, a 93 anni, muore Achille Lauro. È un momento drammatico per la famiglia, ma anche per la flotta. Napoli si stringe intorno al suo eroe. Insieme con i familiari, i figli, la moglie, la piccola Tania, la bambina vietnamita adottata qualche anno addietro, c'erano i ricchi e potenti amici di famiglia, ma anche tanti semplici cittadini. Il comune di Napoli, che aveva inviato il gonfalone della città, era rappresentato dal sindaco Maurizio Valenzi, contestato dagli ultimi fedelissimi, quelli che, issando qualche bandiera con lo stemma sabaudo, vedevano ancora in Lauro l'ultimo viceré. Oggi di quelle navi, di quelle storie, di quegli aneddoti, di quell'epoca così difficile e travagliata, restano solo i ricordi e montagne di carte bollate in tribunale. Dalla morte di Lauro sono trascorsi molti anni. A testimoniare le vicende forse c'è un immaginario leggendario, oltre che il giudizio di molti che lo hanno criticato, ma anche rivalutato. Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Insomma, a distanza di più di 30 anni dalla morte di Achille Lauro, c'è una memoria condivisa o è sempre uno che divide? No, è sempre uno che divide, anche se da qualche anno si incomincia a ridimensionare la demonizzazione di Lauro, che poveretto secondo me si è preso addosso molto più strali di quanto ne meritasse. E perché se ne è presi di più di quelli che meritava? Perché, demagogia o qualcosa di concreto? No, secondo me c'è proprio un piano politico, ma non vorrei esagerare, ma nel 63 si sta per costruire il centrosinistra, la Democrazia Cristiana ha assolutamente bisogno di giustificare la sua alleanza con i socialisti e si deve liberare di questo scomodissimo personaggio che è Lauro. E guarda caso, piove non dall'alto, ma piove un film, Le mani certo. sulla città, che è del 1963, fatto da due socialisti, che quasi come una perfezione geometrica offre questa tesi, cioè Lauro come capro espiatorio, la Democrazia Cristiana viene assunta in cielo praticamente e il centro-sinistra si può fare. E quindi Lauro assume su di sé tutto il male della Democrazia Cristiana precedente. Esatto, glielo fanno assumere non solo della Democrazia Cristiana precedente, ma della Democrazia Cristiana che verrà dopo, perché la grande speculazione edilizia, oramai a detta di tutti, ma ci sono voluti appunto più di 25 anni, più un quarto di secolo per dirlo, si sviluppa dopo Lauro. Quindi non è lui il vero protagonista della grande speculazione edilizia? Grazie a film come Le mani sulla città è tutta una letteratura politica e non politica di quegli anni, è così. È certo che per uno come te, un uomo di sinistra, dire delle cose del genere è veramente una conversione praticamente. È una conversione totale, perché e lo ammetto senza imbarazzo, perché appunto, molto interessante. Essendo stato comunista per tanti anni, napoletano, mi hanno sempre raccontato di questo Lauro come se fosse il demonio, ma che ne so, si diceva di lui che addirittura prima del voto desse metà 10.000 lire e l'altra metà dopo il voto, ma vi rendete conto che cosa vuol dire poi sì. far ricombaciare due monete? Se ci voleva uno si diceva anche delle due scarpe, prima una sinistra poi esatto, una destra. Ma tu pensa che uffici, che stoccaggi, che tutte stupidaggini secondo me. Sì. È vero che offriva la pasta, ma spesso la davano anche i comunisti la pasta. Insomma quindi, dici che sarà la fine di Berlusconi questa fra 30 anni? Beh, lui anticipa, è quasi impressionante il modo in cui Lauro anticipa Berlusconi, perché come Berlusconi è il primo imprenditore, uno dei primi imprenditori a farsi un partito personale, come Berlusconi è il primo a costruirsi una squadra di calcio e a investire, comprò lo svedese Jepson a 100 milioni il famoso all'ora. Jepson. Come Berlusconi, prima di Berlusconi, investì su una televisione privata. Cioè è impressionante ed è anche la fine, la demonizzazione di Lauro in qualche modo preannuncia ciò che poteva succedere, che è successo con Berlusconi. Si può dire che Lauro è l'unico momento in cui in qualche modo la borghesia imprenditoriale entra in politica, poi non l'ha più fatto a Napoli? Come sì, come Lauro poi non l'ha più fatto, questo è vero, ma non, Lauro mette insieme il capitale finanziario che c'era a Napoli in quegli anni, solo i comunisti dicevano che non c'era, ma c'era, cioè, la borghesia professionistica c'era, il popolo, cioè metteva insieme tutta questa parte della città e Lauro piaceva anche a personaggi tipo Curzio Malaparte o Giuseppe Marotta, per esempio, che era un repubblicano, quello, l'autore del... Quindi del aveva una capacità di fascinazione molto trasversale. Beh, diciamoci la verità, la Napoli di Lauro, fatto la tara al racconto di cui abbiamo detto, era una Napoli che era piena di iniziative, piena di cantieri, piena di attività. Certo, era una Napoli miserrima, ma... uscivamo dalla guerra, certo. Uscivamo dalla guerra, però era un cantiere aperto, era qualcosa di moderno. Di speranza, c'era della speranza dentro. Ed era molto moderno, lui fece lo Stadio San Paolo, fece Piazza del Plebiscito, immaginò una Cinecittà napoletana, non gliela fecero fare. L'abbiamo fatta noi con Un Posto al Sole tanti anni dopo. No, poi si è fatta a Roma, ma sai perché non gliela fecero fare? Perché la sua modernità consisteva anche nel fatto che credeva poco già allora nell'industria, prevedeva una crisi della grande industria e si voleva buttare sullo spettacolo. Che a Napoli, insisto nel dire, che forse la più grande industria di Napoli oggi è Un Posto al Sole. 1700 posti di lavoro ha fatto tra diretti e indiretti. Quindi. Penso se Il Posto al Sole lo facevamo 30 anni fa. Ne avremmo fatti altri 30 di Posti al Sole. Appunto. Senti, faccio un'ultima domanda. Quindi... potrebbe sembrare una bestemmia, ma c'è una somiglianza tra De Magistris e Lauro? No, può esserci una somiglianza e in qualche modo viene addirittura rivendicata da Bassolino, cioè Lauro e Bassolino, perché sia Lauro sia Bassolino hanno unito la città, hanno unificato la città, cioè hanno messo insieme, come dire, plebe e pezzi di alto e basso, come si direbbe in mentre cultura. Mentre De Magistris, e questo lo dico senza un giudizio proprio amministrativo o politico, ma De Magistris volutamente è divisivo, divide. Dai, in termine brutto, cioè divide, cioè mette metà città contro l'altra e quindi non ha nulla a che vedere con Lauro. Grazie. Prego. Tante. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.